piacere del dubbio. Di Gianluca Nicoletti. Allora ragazzi, siete vicino a noi per questo periodo? Finirà questo periodo? Ok, ciao Antonio, ciao Davide, ciao nonno, ciao a tutte le guide. Come avete sentito, il messaggio metafonico dice: Giacomo ti aiuta nella vita. Quindi alla mia domanda del siete qui, siete accanto a noi in questo periodo per supportarci, la risposta è stata: Giacomo, sono qui nella vita. E poi dicono: sono accanto. Adesso la risposta è inerente a me perché ho posto io la domanda, ma si rispecchia in ognuno di voi. Quindi le energie affini e le entità amiche sono molto molto vicine alla nostra vita quotidiana, soprattutto in questo periodo, perché ci accompagnano per superare appunto questa drammatica situazione. Ecco, l'importante è che ci siano le entità amiche. Questo era un messaggio di un signore del canale YouTube Eventi Paranormali, che si mette in contatto con delle presenze che vivono, non so, realtà intermedie, sono spiriti dei nonni morti, non lo so bene, che comunicano attraverso una vecchia radio che viene sintonizzata, mi sembra, nelle onde corte, e smanettando e sperando si sentono questi rumori, e sono le presenze che comunque ci danno delle ragioni in un momento piuttosto difficile. Perché è difficile il momento? Ma indubbiamente non è un momento come gli altri. L'Ordine degli Psicologi Italiani ha fatto uno studio, naturalmente chiaro, è anche finalizzato ad avere futuri pazienti, per cui il 63% degli italiani soffrirebbe da stress di pandemia, ansia, insonnia, depressione e via dicendo. Sta di fatto che comunque è logico. Io ogni volta mi pongo il problema: domani parlo di qualcosa che non sia il Covid, poi sempre li ricadiamo, perché ancora incombe in maniera troppo presente sul nostro quotidiano poter dire non ce ne occupiamo più. Però questa mattina, visto che è venerdì, visto che è una giornata normalmente di relax radiofonico in cui ci affidiamo più alla fantasia che ai fatti oggettivi, che alle valutazioni reali, pensiamo un attimo: qual è la maniera migliore per uscire da uno stato d'ansia, da uno stato di profondo smarrimento, di dolore, di incapacità di darsi risposte, è trovare un colpevole. Vi lascia l'amore della vostra vita, dovete convincervi che è colpa sua, che non vi meritava. Venite licenziati, dovete convincervi che non è perché avete svolto male il vostro lavoro, ma è colpa del datore di lavoro. Così via, andando avanti e via dicendo, per ogni vicenda spiacevole che ci cade nella nostra vita, se troviamo un colpevole, comunque già siamo a metà del cammino di elaborazione. Abbiamo provato questa mattina quindi a saggiare, se possibile, il nostro pubblico, proponendogli uno sforzo, ma guardate, uno sforzo onirico, non deve essere razionale. Provate a immaginarvi un attimo, guardatevi intorno, avrete sicuramente come tutti dei problemi, sarete oppressi, avrete incertezze, vi dispiaceranno una serie di cose che non vanno come voi pensate, come voi sperate, e chiaramente di tutto questo non sapete darvi risposta. Perché? Perché è impalpabile il colpevole, è distribuito in tutto il mondo, un'infinità di supposizioni, di certezze che galleggiano nello stesso luogo in cui galleggiano anche le ipotesi, le invenzioni fantasiose. Beh, questa mattina datevi un colpevole. Di chi è la colpa? Pensate di chi possa essere la colpa. Anche una persona che conoscete, qualcuno che vi sta vicino, che la sua presenza è così cosmicamente nefasta che ha determinato un cataclisma cosmico, mondiale. Ecco, ditemi di chi è la colpa questa mattina. Noi vi abbiamo dato una griglia, abbiamo dato 7 grossi motivi di colpa, che sono quelli che generalmente possono essere attribuibili alla maggior parte delle opinioni che abbiamo registrato, analizzato nei social, negli articoli dei giornali, nelle inchieste, nei sondaggi precedenti. E vogliamo sondare questa mattina: se l'italiano medio dovesse dare la colpa a qualcuno per sentirsi meglio, a chi darebbe la colpa? 800 24 0024, il sondaggio. Secondo l'ordine degli psicologi, il 63% degli italiani soffre di stress da pandemia e manifesta forme di ansia, insonnia e depressione. La Covid-19 ha indubbiamente stravolto le nostre vite. Morte, paura della miseria e incertezza sul futuro non sono facili da affrontare. Sappiamo anche che è umano sentirsi meglio davanti alle sciagure se si riesce a darne una spiegazione e soprattutto se si individua un colpevole. Oggi vogliamo sapere da voi quale è il vostro pensiero a riguardo. Diteci a chi vi piace attribuire la maggiore responsabilità della pandemia e delle sue conseguenze. Chiamate ora all'800 24 00 24 e diteci quale scegliete tra questi possibili colpevoli o se ne individuate altri. 1. È colpa dei cinesi che non ce l'hanno raccontata giusta sin dall'inizio. 2. È colpa dei politici che sono stati impreparati di fronte all'emergenza. 3. È colpa dell'ignoranza e di quelli che pensavano e ancora pensano che il virus sia una stupidaggine. 4. È colpa dell'umanità, che per secoli ha maltrattato la natura che finalmente si è ribellata. 5. È colpa dei poteri forti che stanno usando il virus per controllarci. 6. È colpa degli alieni che vogliono colonizzare la Terra. 7. È colpa di tutti quelli che si sono allontanati da Dio seguendo la via del peccato. Vi servirà a Balzano l'assemblaggio che abbiamo fatto dei motivi del Covid-19, ma sono tutti elementi che comunque sono stati analizzati, qualcuno l'ha detto, qualcuno l'ha pensato, qualcuno l'ha diffuso, l'ha condiviso, questa sorta di colpevolizzazione. Per voi di chi è la colpa? Tranquilli, io vi descrivo e vi riassumo le 7 piaghe della colpa che noi abbiamo in qualche maniera messo assieme. È colpa dei cinesi che non l'hanno raccontata giusta. L'ho visto anche ieri sera in uno speciale TG2, il senatore Salvini dice: i cinesi non ce la raccontano giusta. Quindi rimane l'idea che i cinesi comunque siano la scaturigine prima di tutto quello che ci è accaduto. Se l'avessero detta giusta, fossero stati trasparenti, ce l'avessero detto in tempo, tutti quei pipistrelli che si sono mangiati non avrebbero creato, questo lo sto riassumendo, le motivazioni profonde di questa prima ipotesi, non avrebbe causato il nostro malessere e dovremmo andare tutti allo psicologo a causa di questo. Colpa dei politici è la più facile attribuzione di colpa, è colpa dei politici. I politici hanno sbagliato tutto, non erano preparati, non avevano un piano di emergenza, hanno agito male. C'è stata una rissa ieri in Parlamento proprio su questo argomento, su rimbalzarsi alcune colpe istituzionali precise. Colpa dell'ignoranza di quelli che pensavano ancora pensano che il virus sia una stupidaggine. Ecco, questo è il sollievo del rigoroso. Dici: io faccio di tutto, vedo ancora la gente senza mascherine, la gente che pensa che è una stupidaggine, quelli che escono, quelli che non danno retta comunque alle indicazioni della comunità scientifica. È colpa loro, è colpa di quelli che non sono ligi. È un punto di vista, diciamo, molto improntato al sentirsi comunque i bravi, i primi della classe, quelli ligi, considerare il resto del mondo un pubblico di indisciplinati. Per colpa loro l'umanità va a rotoli. È un, diciamo, sottende una visione del mondo molto austera, ma allo stesso tempo molto basata sui principi fondamentali indissolubili che solo noi incarniamo. Il resto, il mondo è fatto di persone anarchiche, stolte, insomma c'è qualcosa di apocalittico in questo senso. Gli altri sono tutti stupidi e noi siamo gli unici che capiamo e sappiamo. Terzo, colpa dell'umanità che per secoli, per millenni ha maltrattato la natura, è la ribellione della natura. Questo è il senso di colpa che viene attribuito da tutto un versante ideologico molto più basato sul rispetto dell'ambiente, l'animalismo, l'essere vegetariani, non mangiare carne animale. La natura si ribella perché abbiamo compiuto atti contro natura innominabili, quindi ci prendiamo la ribellione della natura, più o meno quello che si diceva anche ai tempi dell'AIDS: chi consuma rapporti contro natura è il primo untore di questa pestilenza, e oggi si può dire anche per il coronavirus. colpa dei poteri forti che hanno usato il virus per controllarci. Ecco, siete d'accordo che anche questo è un motivo di colpa, che dietro tutto questo ci sia un piano ben preciso? Cioè, chi lo dice, chi lo proclama, non è una ipotesi del tutto peregrina, dietro ci siano, che ne so, le banche, i poteri economici che in questa maniera agiscono e giostrano meglio i loro interessi, e soprattutto c'è un'idea che un'umanità spaventata e reclusa è un'umanità più controllabile. Il passo successivo è il 5G che ci controlla tutti, il microchip sottopelle, via dicendo. Il Covid-19 è soltanto l'avvisaglia che già le scie chimiche avevano in qualche maniera profetizzato. Questo è, diciamo, il punto di vista complottista. 6. Colpa degli alieni. Sembra una stupidaggine, ma molti danno la colpa a civiltà aliene che in questo momento cominceranno a colonizzare la Terra, fanno su di noi i famosi esperimenti genetici che si costituiscono sempre sull'intromissione di indecenti sonde negli anfratti più innominabili, e quindi a questa volta ce l'hanno formalmente e metaforicamente messa in quel posto mandandoci questo virus. L'ultimo è colpa di tutti quelli che si sono allontanati da Dio seguendo la via del peccato. Devo dire che in alcune emittenti molto frequentate è stato avanzato anche questa sorta di idea della piaga biblica, dopo le cavallette, dopo lo sterminio dei primogeniti, dopo le tempeste di fuoco, i cavalieri dell'Apocalisse. Esiste anche questa possibilità che ci possa essere una sorta di Dio vindice che riesce in qualche maniera a farci capire e riprendere le distanze fra chi comanda e chi per sua natura deve essere comandato. 800240024, Maria da Pesaro, buongiorno. Buongiorno. Senta, io do la colpa agli americani perché non fanno altro che strillare e dar la colpa agli altri, e sono gli unici che strillano nel pollaio, no? Da noi si dice che chi l'ha fatta è quella che dice dà la colpa per primo agli altri. In questo caso si parla della puzzetta, la puzzetta nell'ascensore. Della puzzetta, esattamente. Una puzzetta un po' grave, però chiamiamola puzzetta. Diciamo, colpa della puzzetta è che chi la prima gallina che canta ha fatto l'uovo, si diceva alle mie contrade. Esattamente. Chi l'ha fatta e chi lo dice è il primo che l'ha fatta. Voi dite, lei diciamo, ha riportato questa fanciullesca e divertente metafora per attribuire la colpa di una pestilenza. Però sono i miei motivi, non è solo quello. No, dettagli, perché lei si sentirà meglio quando avrà dato una colpa a qualcuno. Dica perché è colpa degli americani. Perché è tanto che tenta di destabilizzarci economicamente con i dazi, con tutto. Lo fa con la Cina. Il presidente, quindi il principale colpevole è il presidente Trump. Poteva far benissimo. Guardi Maria, però aspetti. Maria, ferma un attimo, Maria, perché è importante. Lei è la prima a telefonare, stanno arrivando altre telefonate. L'importante è che voi riusciate a visualizzare il colpevole, perché ci si sentirà meglio, si eviterà l'ansia che profetizzano l'ordine degli psicologi. Se troviamo un colpevole, dobbiamo vedere il faccione di qualcuno che ci sta proprio sulle scatole, diciamo, è colpa sua. Quindi lei, nella faccia di Trump, che dice io mi prendo tutte le mattine la pillolina la pillola contro i reumatismi, quindi mi sto salvaguardando, che dà ragione a tutte le teorie più assurde e via dicendo, la colpa è sua. Diciamo la verità, lo vede nella faccia di Trump. Sì, ma spero che non mi denunci. Ma mica è un'attribuzione di reato, dice secondo me è colpa tua. Io mica penso, dico che hai fatto. Penso che potrebbe essere. Si sente un po' meglio pensando che c'è un colpevole? Un po' sì? No, assolutamente. Come non si sente meglio? Come si sente meglio? Almeno meglio. Sa di che colpa. Come prima, cioè, sì, ma se io le dicessi, noi... se io le dicessi, Maria, guardi, ha ragione, le do le prove che il colpevole è costui. Lei diceva, finalmente ho capito di che colpa. L'ansia contenta, mi passa. Sì. Ma tanto non verranno mai fuori le prove, non verrà mai fuori niente. Maria, un attimo, siamo alla radio, mica siamo di fronte al tribunale del Padre Eterno, per chi ci crede. Quindi lei può pensare quello che vuole, purché si senta meglio. Se si sente meglio pensando che abbiamo trovato il colpevole, lo portiamo davanti, diciamo adesso qual è la pena? 20 fustigate sulle natiche, coprirlo di piume e di pece. Lei si sente meglio e noi abbiamo trovato un colpevole. Rita, provincia d'Imperia, di chi è la colpa? Sono d'accordo con la signora. l'Inghilterra, prima di tutto in Italia il governo italiano. No, cominci, no. Lei pensa a un colpevole, non può pensare a una gabbia piena di colpevoli, pensi a quello che è più colpevole di tutti e lo immagini che gli mettiamo la pece, le piume e finalmente stiamo meglio. Chi è il colpevole? Allora, il sindaco di Bordighera, alla fine, se lei vuole solo una testa... No, perché lei perché è partita dall'America, dall'Inghilterra, è arrivata al sindaco di Bordighera. L'importante è che vada precisa. Il sindaco di Bordighera è colpa di tutto, anche quello che è successo in Cina, in Australia, in Germania, in Francia, è lui. Alla fine sì, perché le misure sono prese sul posto, sì o no? Quindi la colpa del Covid, piaga mondiale, elemento cosmico di preoccupazione, è colpa del sindaco di Bordighera. Si sente meglio adesso? Un pochino meglio. Di cosmico, soprattutto sotto di me, soprattutto c'è due cani abbandonati, allora tutto è bloccato, Londra tutto questo, c'è un proprietario che vive tra quattro posti, la Svezia, l'Inghilterra, Monaco e qua. Quindi diciamo è una rete internazionale di colpevoli, il signore che tiene due cani abbandonati sotto casa sua, che va in Svezia, chissà fare cosa, in Inghilterra fare cosa, negli Stati Uniti fare cosa. Si sente un po' meglio adesso che le do ragione su questo? Sì, ha ragione, è così, ha ragione. Non mi sento meglio perché niente va avanti, niente. Quanto vuole, l'ho trovato il colpevole, scusi, io posso trovare colpevoli, non posso poi... Comunque sia, lei è più solo... Vede che ride, se ride sta meglio. Dario da Roma, di chi è colpa? Sì, buongiorno, io sento sempre la vostra radio, la sento sempre. Bravo, mi dica adesso secondo lei di chi è colpa e si sentirà meglio, di chi è colpa? La colpa è dei cinesi. Oh, bene, prima cinesi. La colpa è dei cinesi perché la storia ce lo insegna. Ma tutti i cinesi del mondo o c'è un cinese in particolare? Ma dalla Cina, dalla nazione Cina, perché la storia ce lo insegna. Tutte le malattie che interessano i polmoni, l'influenza, vengono dalla Cina. E hanno trovato quella giusta, quella proprio cinese, capito? Quindi diciamo, faccio un bel respiro, dice finalmente, me ne faccio almeno una ragione, è colpa dei cinesi. L'ha sempre pensato, però in questo momento le do ragione, sono qui per dare ragione, non voglio assolutamente assolvere i colpevoli, ognuno abbia il suo colpevole individuale per sentirsi meglio. Ci fermiamo un istante. Fineco, è tempo di investire con noi. Vi presento. Chiamate ora all'800 24 00 24 e diteci quale scegliete tra questi possibili colpevoli o se ne individuate altri. 1. È colpa dei cinesi che non ce l'hanno raccontata giusta sin dall'inizio. 2. È colpa dei politici che sono stati impreparati di fronte all'emergenza. 3. È colpa dell'ignoranza e di quelli che pensavano e ancora pensano che il virus sia una stupidaggine. 4. È colpa dell'umanità che per secoli ha maltrattato la natura che finalmente si è ribellata. 5. È colpa dei poteri forti che stanno usando il virus per controllarci. 6. È colpa degli alieni che vogliono colonizzare la Terra. 7. È colpa di tutti quelli che si sono allontanati da Dio seguendo la via del peccato. (800) 24 0024. Innanzitutto ringrazio da Milano Peter Bescapè, Alessandro Marco Tulli, da Roma Alessandro Chiappini e Fabrizio Intonti da casa. Questa mattina vi ho proposto di sgravarvi un po' l'ansia, l'agitazione, la preoccupazione, dando la colpa a qualcuno. È un po' il concetto del piove governo ladro, questa è una battuta, nasce diciamo a metà dell'Ottocento, 860 mi pare, 61, in questo giornale Il Pasquino pubblicò una vignetta, il giorno prima doveva esserci una manifestazione in piazza a Torino di mazziniani ferventi, piove e non ci fu la manifestazione, il giorno dopo Pasquino disse piove governo ladro, è colpa del governo che ha piovuto e quindi non abbiamo fatto la manifestazione. Quindi anche oggi per la stessa ragione abbiamo dato la possibilità di scegliere un colpevole, guardarlo, allucinarlo, vederlo, odiarlo, pensare la pena possibile per la situazione di disagio per il Covid-19. Siccome gli psicologi italiani hanno detto che ne usciremo tutti depressi, affranti, con sensi d'ansia, noi ce ne ridiamo dell'ansia trovando un colpevole. Quando diamo la colpa a qualcuno ci sentiamo meglio. Franco, provincia di Parma, di chi è la colpa? La colpa, secondo me, è della globalizzazione, quindi ottava opzione. Globalizzazione, perché noi qui non possiamo ammazzare il maiale sull'AIA, no? Le norme igieniche hanno vietato questa, che era un nostro rito. A chi lo dice? Di Savanti Maiali ho visto ammazzare da bambino, dice? Certo. Il norcino, no? Certo. Io sono umbro, quindi lo so bene. E poi invece da Wuhan, dal mercato sudicio di Wuhan, si mangiano due pipistrelli e stiamo tutti male. E arriva qua e ci infetta. Infatti poi per contrappasso ci troviamo confinati, prima in casa nostra. Però scusate Franco, lei ha scelto diciamo, la prima opzione, ma deve in qualche maniera allucinarla per stare meglio. Deve immaginarsi un cinese vestito da cinese come nelle litografie ottocentesche, col codino, il cappello, dipinto di giallo, perché sennò che cinese è, con un pipistrello in mano che se lo mangia, e concentrare lì tutta la sua volontà di trovare un colpevole, si sente meglio. Allora Cesare da Milano, di chi è colpa? Di chi è colpa? Nel mio immaginario personale la colpa è di un povero, ma in realtà non riesco a colpevolizzarlo, cioè nel senso deve essere colpevole, perché sennò se non c'è colpevole. No, è colpevole pesantemente, però in questo caso io me lo vedo come il cinese è cinese, però è il tecnico di un laboratorio cinese, è quello. Dal volto, ma provi a descrivermelo come se lo immagino, perché dobbiamo descriverlo, perché sennò allora, se non lo vediamo. Io lo descrivo così: tecnico di laboratorio cinese con mascherina, con occhialoni, quindi non individuabile nel volto. La faccia non si vede, mascherato con i grossi occhiali tondi. Ma è quello a cui è caduta la provetta, cioè quello che a un certo momento ha detto ops e si è reso conto di aver fatto la. Ha un camice bianco e nasconde le mani dietro la schiena e fa finta di niente. E dice, ops, è caduta la provetta. Dopodiché di quel povero tecnico, di quel tecnico non sapremo nulla di laboratorio, che fine ha fatto. Lo troviamo negli involtini primavera sicuramente, se no che vendetta è? Quello già è stato diciamo macinato. Però comunque nel nostro immaginario resta lui il tecnico che ha detto ops, gli è caduta la provetta con il Covid-19, non ha detto niente a nessuno, ha buttato i pezzi di vetro sotto il tappeto, perché ci sono i tappeti naturalmente in laboratori cinesi, è tornato a casa tranquillo e lui è il colpevole. Davide, provincia di Varese, di chi è il colpevole? Chi è il colpevole? Ciao, il colpevole sono io. Oh, bene, un senso di. Beh, lei si autoflagella, trova che stia meglio, sì. Si dice colpa mia. Benissimo. Sì, perché ho comprato l'abbonamento per mia moglie in palestra, mai andata in palestra da una vita. Mi sono comprato l'abbonamento per andare in piscina un mese, un anno di piscina a gennaio. Beh, di solito si fa a gennaio, ci sono le offerte speciali, sono proprio a gennaio. No, erano anni che mia moglie diceva devi diventare magro. Finalmente ho deciso di andare in piscina, avevo appena iniziato. Sì, ma non basta andare in piscina, bisogna smettere di mangiare, questo è il problema. È che non gli... la parte quello, che ho messo sua moglie, quindi è colpa di sua moglie, diciamo la verità. Non si può dire che è colpa di mia moglie, non si può mai dire che è colpa della moglie. E abbia questo coraggio, non si prenda lei anche le colpe. Colpa di sua moglie, è che le ha fatto fare l'abbonamento in palestra, in piscina, portando un terribile anatema cosmico che dice io ho preso l'abbonamento e nel mondo è scoppiato il Covid, è colpa tutta di voi. Dica che è colpa di sua moglie, sta meglio, è colpa di sua moglie, sicuramente. Lo dica, spera come sente me, vedi già sorride. Vedi che già sorride, già si è sollevato. Non si prenda lei sensi di colpa. Chi ha colpa a qualcuno? È colpa di sua moglie. Allora, Carla da Cuneo, di chi è colpa? Nicoletti, dell'inquinamento. Sì. L'inquinamento. Però cerchiamo un po' di circoscriverlo, perché l'inquinamento non può... O se no mi descriva l'inquinamento per vedere il colpevole, come è fatto. Allora, se il virus si è sviluppato nelle maggiori regioni industrializzate, Piemonte, Lombardia, Emilia Romagna. Perché le polveri sottili hanno portato il virus? Questa è diciamo la nuova tesi. No. È colpa l'aria era inquinata, c'erano le polveri sottili e il Covid è saltellato di polvere di granello in granello è arrivato ai nostri polmoni. In Sardegna che non c'erano le polveri sottili, poi è tutto da dimostrare, ci saranno altre cose, infatti stanno meglio. Quindi è colpa della polvere sottile. Immagini il granello di polvere che è stato colpevole del saltello del virus che granello dopo granello potrebbe arrivare nei polmoni delle persone. Mi sembra bello. Paola da Roma, di chi è colpa? Buongiorno. Paola. Aiuto, mi senti? Sì, quanti siete? Sento un sacco di voci. Sì, no, scusami, era mio marito che parlava. Ci squisivamo. Beh, allora, male, io sono morta... Non... I mariti non dovrebbero parlare. No, assolutamente no. Aveva quella facoltà nella giornata di oggi e l'ha sprecata. Allora, comunque, di chi è la colpa? Di tuo marito? Fammi capire, di chi è la colpa? No, solamente io sono mossa da due sensazioni. Una è la paura di ascoltare l'ascoltatore di prima che dice che lo intravede dentro una boccetta in un laboratorio. La seconda, no, più che altro perché io non ho la verità Paola, in tasca. Paola, è chiaro, non è una trasmissione seria questa, cioè seria nel fatto ci piace sondare l'animo umano. Ma oggi sono io a istigarvi a trovare un colpevole onirico per stare meglio. È chiaro che più è reale il colpevole, più state bene. Un colpevole concretamente è colpevole, andrebbe dimostrata la sua colpa, potrebbe difendersi. Pensate a un colpevole che è indifendibile e state meglio. Quindi chi è il colpevole indifendibile per lei? È proprio l'umanità, che sembra come dire una viaggeria, però bastava ascoltare gli scienziati da decenni. Allora se devo localizzarlo in un colpevole, probabilmente allora a questo punto sono tutti quelli che finora ci hanno governato, perché io non voglio fare propaganda a nessun libro, ma sto leggendo un libro di David Quammen che 10 anni fa già prevedeva tutto questo, ma perché prima di che arrivasse forse il Big One, magari non lo sarà il Big One, io mi auguro, già ce ne sono state talmente tante di virus. Per noi inimmaginabili, basterebbe... Quindi è colpa, colpa dei governanti che hanno messo. Quindi lei semplicemente si prenda la faccia del governante che più pensa che possa prestare il fianco a essere colpevole e dica è colpa sua e comincia a tirarci le freccette così e avrà improvvisamente questo sentirsi meglio. Ci fermiamo ancora un istante. Melog 800240024, siamo alla felice e piena di soddisfazione ricerca del colpevole. Se troviamo un colpevole, anche se reale, assurdo, ma i colpevoli che maggiormente danno, placano l'odio generale, individuale, l'odio di folla, sono sempre incolpevoli, sono sempre le persone in fondo che meno hanno colpo, hanno responsabilità, ma si vuole un colpevole, deve cadere una testa, bisogna comunque mettere all'indice qualcuno che ci ha fatto star male, così ci sentiremo meglio. Benissimo, questa mattina facciamo questa scellerata operazione. Mario, provincia di Cuneo, di chi è colpa? La colpa è di Greta Thunberg, secondo me. Oh, perfetto, benissimo, colpa tutta sua. Perché è colpa sua? Cosa ha fatto? Perché... la vedevamo da tutte le parti, penso che anche il virus non abbia potuto più, a un certo punto ha detto devo fare qualcosa perché... No, adesso scherzare va bene, però deve in qualche maniera motivare e argomentare la sua cosa. Lei dice esattamente il contrario, rispettate l'ambiente, mantenete comunque un contatto come umano. Noi, prossimo, noi non, l'ambiente l'abbiamo sempre abbastanza rispettato, non parlo per me, ecco. Penso la maggior parte delle persone, ecco, ci ha creato questo senso di colpa così che ne è, a certo punto. Allora guardi, l'aiuto io ad argomentare, che ho capito cosa vuol dire. È colpa degli ambientalisti che ci hanno portato una grande sfiga a forza di fare gli uccelli del malaguro, succederà, è successo, se stavano zitti non succedeva, ecco, diciamola così, che almeno è più razionale, ma l'irrazionalità placa la nostra ansia che è un istinto irrazionale, quindi è colpa loro, se stavano zitti e non ci facevano sentire come delle persone schifose che usavano la plastica, poi la buttavano per terra, che avvelenavano i fiumi, riscaldavano il paese, oggi staremmo tutti molto meglio, quindi è colpa loro. E quindi continua a pensare che Greta è la colpevole di tutto e vedrà che si sentirà meglio. Laura da Roma, di chi è colpa? Pronto, buongiorno Nicoletti. Sì. Allora, per me la colpa è proprio del virus stesso, nel senso che i cinesi purelli ci hanno avvisato non appena hanno potuto, ci hanno detto tutto quello che hanno fatto, non mi sembrano molto... Però non sono tutti di questa idea, qualcuno dice hanno qualcosa da nascondere, non ce l'hanno raccontata giusta. Qualcuno dice non l'hanno raccontata giusta. Questa è la mia di opinione. E ritengo innocenti anche i politici, che di colpe ne hanno tante, però ma questa volta me, no. Ma di chi è la colpa allora? Troverà il colpevole? Virus. il virus, questo brutto virus che è fatto a forma di mina con tutti i detonatori intorno, verde, acido, cattivo, è colpa del virus. Ogni tanto però capitare. Guardi Laura, lei ha individuato forse la maniera più semplice. Siccome è stato subito, diciamo, reso umano questo virus, da 5 minuti dopo che sapevamo che esisteva, già l'abbiamo visto, la palla rossa con tutti i detonatori sopra, esiste dappertutto, gli hanno messo braccia, gambe, è una sua umanità. Ecco, quindi lei odia questa sorta di alieno con la testa bitorzoluta, che poi è rosso, verde, non si sa bene, e quindi la colpa è sua. Quindi lei individua la colpa proprio nel primo colpevole. È stato lui e basta. Quindi odiando lui si sente meglio. Non è male. Rodolfo, da Viterbo. Eccomi qua, però è molto più complicata la cosa, perché la verità è questa, che il... non sapendo più cosa mettere in trasmissione, l'alieno che si chiama Nicoletti ha sparso il virus per sfracellarci con l'ennesima delle sue folli indagini. Noi ci diventiamo tutti come matti. Ma quindi io sono il colpevole, sarei io. Cioè io mi sono inventato il coronavirus. Scusa, ma non ti sei accorto. Le do anche un motivo in più, così almeno faccio la trasmissione da casa e non devo uscire. Vedi, anche questo. Se vuole star bene, le do anche il motivo. Ma lo stai facendo da casa o sei? Da casa, basta che lei guarda il sito Radio 24, vede nella mia triste cameretta, luogo in cui consumo le mie stanche carni. E sto qui dove ordisci questi complotti. Certo. E questo la fa star meglio, Rodolfo, la fa stare meglio. Ah, guarda, sono veramente felice. Hai detto bene. Se le toglie l'ansia. Qualcuno. Guardi, il meccanismo è questo. Adesso lei ci sta scherzando, ma se l'odio generale e irrazionale, se non ha strumenti di elaborazione basati su certezze, deve trovare un colpevole. Nelle pestilenze passate i maggiori colpevoli sono stati gli ebrei, sono state fatte stragi sanguinose nei secoli passati per ogni pestilenza, peste, perché alla fine gira che ti rigira la colpa era la loro. Quindi questa volta comunque sia esistono tutta una serie di ipotesi sulle possibili colpe, tutte basate su naturalmente illazioni, su nessuna certezza, però tutte credibili. Quindi io questa mattina ho dovuto fare un'operazione di semplificazione, se volete, di servizio verso il pubblico. Trovate un colpevole e starete meglio. Io sono felice di essere la ragione del suo benessere. Gli ho dato anche un motivo più particolareggiato per pensare che sia io. Nicoletti si è inventato il coronavirus per avere modo di parlare tutti i giorni di qualcosa che comunque qualunque cosa dici, tanto nessuno può verificare. E in più questo grande paraculo se la fa da casa adesso, non deve più nemmeno prendere la metropolitana. Carlo da Cremona, buongiorno. Sì, buongiorno da Crema. No, è fondamentale, certo, la differenza. Sì. Io vedo uno scienziato pazzo a Wuhan, nel laboratorio che studia il coronavirus, in una stanza insieme a una serie di pipistrelli infetti che gli svolazzano intorno. Quindi lei, diciamo, in qualche maniera sta argomentando con maggiori particolari la visione del suo collega ascoltatore. Vede a lui soltanto, uno scienziato. Allora aspetta, io dico cosa, partiamo dalla base. Scienziato nel laboratorio che tutti sanno e conoscono e si studiano i virus per scopo bellico, che è stato più volte indicato da tutti gli informati che guardano in internet. C'è questo signore cinese, ma non si vede che è cinese perché ha degli occhiali spessissimi, tondi, ha una mascherina, ha un camice bianco, cade la provetta e la nasconde sotto il tappeto. Invece lei cosa aggiunge a questa visione del colpevole? Scienziato pazzo ha creato lui questi suoi figli. E sono i pipistrelli infetti che gli svolazzano intorno. E a un certo punto io vedo che lui apre la finestra e dite: andate e moltiplicatevi, e li lancia nel mondo. Cioè, qualcosa a metà fra Nosferatu, che porta la peste con i topi, e poi diventano pipistrelli, poi diventano vampiri. C'è tutta una saga di fanta horror splatter di vampiri che diventano ora pipistrello, ora topo, non si capisce bene, ma più o meno è la stessa cosa. In questo caso manda in giro il Covid attraverso i pipistrelli, che lo portano i pipistrelli. Lui, sì, esattamente. E beh, questa, diciamo, ha dato perlomeno una continuità a questa visione. Ecco, vediamo se qualcun altro riesce a inventarsi qualcosa. 800240024. Io mi sto aspettando che qualcun altro si affacci a questa possibilità di trovare un colpevole, possibilità unica, più unica che rara, perché se pensate bene, tutti i colpevoli possono tranquillamente essere assolti dalla loro colpa, perché non ci può essere una colpa precisa indicata in una sola persona che ha fatto un atto e un gesto. Quindi una volta che avete la possibilità di trovare un colpevole che a tutti gli effetti è come se avesse un bavaglio e non si può difendere, approfittatene, vi sentirete meglio. Lucio da Napoli. Salve. Allora, io ho un po' individuato nelle prime cinque, si vede della lista che lei ha messo giù un pochino. Sì, quindi, non era una lista casualmente scritta, ci eravamo basati, abbiamo fatto uno studio, un'analisi delle fonti, abbiamo visto bene o meno in questi due mesi quelle erano le voci più ricorrenti, quindi c'è un razionale. Non in una sequenza, diciamo, di priorità, ma ce le vedo un po' tutte e cinque. Io ad esempio vedo nel mio piccolo, nel mio quotidiano, la mia babysitter, che è un po' sempliciotta, che ha lo stesso livello culturale di Trump. Cioè, Trump in un modo e lei nell'eccesso opposto la vedono nello stesso modo. Cioè, per loro è tutta un'invenzione, per loro non è vero nulla. Ma come è possibile? Quindi è colpa degli scettici, è colpa degli scettici. No, Trump ha identificato i cinesi. Si chiama il Don Ferrantismo, diciamo, è analizzato dalla clinica questo fenomeno, che poi è una psicosi, il Don Ferrantismo, colui che vedeva la peste nelle macchie lunari e morì di peste nel racconto manzoniano. Si soffre di Don Ferrantismo, quindi si pensa che comunque non esista, sia tutta un'illusione, ma questo si è detto della AIDS, si è detto di un'infinità, si è detto del morbillo, si è detto di tutte le possibilità che ha l'umanità comunque di patire. Il patimento non esiste, è soltanto un'invenzione, e quindi lo scettico generale, l'illuso, è colui che è colpevole. Funziona comunque, dovrebbe cercare di allucinarlo come un essere umano, come una persona, come si veste, come va in giro. Questo sarebbe, diciamo, darebbe un quadro più completo. Fabio, provincia di Pavia, di chi è colpa? Sì, allora, molto semplicemente, molti danno colpa al pipistrello, ma a me sta simpatico. In una delle prime versioni ufficiali cinesi ci fu anche un animale di contatto tra il pipistrello e il maiale, ed era un tale pangolino. Il pangolino, è stato assolto. È un armadillo a scaglie, è un armadillo a scaglie. Lo conosce, io non so neanche che faccia abbia questo pangolino, però il nome è talmente simpatico da risultarmi antipatico, per cui pipistrello, poveretto, io lo assolgo. Il pangolino adesso è anche protetto, è un armadillo con questa coda lì, con una specie di formichiere, però coperto di scaglie. Però il motivo, se vogliamo vedere, della sua colpevolezza è diversa. Con quelle scaglie cinesi pensavano alcuni cinesi di ritrovare il siero dell'eterna erezione, quindi c'è sempre il bisogno maschile di avere succedanea alla propria capacità virile. Beh, un po' di colpevole l'abbiamo trovato, staremo tutti meglio, affronteremo meglio la fine settimana.